Sì, si tratta di un lavoro che mi ha portato via, diciamo, un anno di lavoro, tutto lo scorso anno. Ho seguito tre storie di produttori di cibo nelle Langhe. Io sono originario delle Langhe, sono di Lamorra, e volevo, attraverso queste tre storie, attraverso tre personaggi, cercare di raccontare dei fenomeni più complessi e anche non così strettamente locali, ma anzi direi globali, quali la cementificazione, il consumo di territorio, l'espansione edilizia incontrollata, insomma uno sviluppo edilizio che è anche sviluppo economico e che non tiene assolutamente conto di ciò che ci circonda e quindi alla fine finisce per danneggiare noi stessi e le nostre vite. Questo in sintesi, anche Doc. Ecco, le Langhe, Doc, in particolare vengono raccontate le storie di tre eretici, come le chiami tu, un pastore, un produttore di pasta e una produttrice di vino. Ecco, quali sono le specificità di ciascuno di loro e quali invece le cose che li accomunano? Sì, le storie raccontate sono quelle di Silvio Pistone che faceva il piastrellista e poi ha mollato tutto per andare a produrre formaggi a Borgomale, nell'Alta Langhe, quindi adesso vive con una bella famiglia, ma soprattutto con 30 pecore. Maria Teresa Mascarello, che invece ha una storia molto più conosciuta, che è la figlia di Bartolo Mascarello e, tra virgolette, l'erede di quello che è una piccola produzione in termini di vino, ma una produzione veramente pregiata e di rilievo, uno dei vini Barolo più importanti d'Italia, del Piemonte. La terza storia è quella di Mauro Musso, che anche lui viene da una storia legata alla grande distribuzione. Lui lavorava in un supermercato della zona, è stato licenziato in uno di questi famigerati piani di ristrutturazione interna e ha deciso di cambiare totalmente vita, di mettersi a produrre cibo. E soprattutto, conoscendo, come dice lui, la grande distribuzione, ha deciso di andare nella direzione opposta, cioè di cercare la qualità estrema, di produrre cibo di qualità. Forse la cosa che accomuna maggiormente questi tre personaggi è proprio il discorso sulla qualità del cibo, sulla qualità di ciò che mangiamo. È un fatto che inizialmente l'ho assorbito in modo quasi inconscio, cioè il fatto di non ho trovato subito un rapporto tra cibo e territorio. Poi in realtà mi sono reso conto che c'è un forte legame, e la cosa è testimoniata da una serie di iniziative, non ultime quelle di Slow Food, che finalmente, oltre alla qualità del cibo, puntano anche a tutelare il paesaggio, a tutelare il territorio. Dette in estrema sintesi, siamo tutti quanti dei consumatori. E quindi i nostri consumi, non ultimi, anzi per primi quelli di cibo, incidono su ciò che ci circonda. Quindi il fatto che accomuna queste storie è sicuramente quello, ma è anche l'amore per le langhe. Infatti Langhe Doc nasce da questo gioco di parole, ovvero Langhe Doc come documentario, ma anche come denominazione d'origine controllata, cioè tre persone che davvero amano la propria terra e la vogliono salvaguardare. Diciamo da eretici, cioè senza associarsi e seguire un pensiero predefinito da altri, ma ragionando di testa propria. Ecco, il film, il documentario viene presentato giovedì 3 novembre alle 21, l'appuntamento al Cinema Messico di Via Savonara 57 a Milano, un'iniziativa che si inserisce, diciamo, nel percorso di avvicinamento alla Terra Trema che si svolgerà a Leoncavallo il 25, 26 e 27 di novembre. Ecco, nella serata del 3 novembre, oltre ai protagonisti del documentario, ci sarà anche Domenico Finiguerra, che è sindaco di Cassinetta di Lugagnano. Ecco, Esatto. mi sembra rilevante la sua presenza. Sì, sicuramente. Diciamo che il suo è uno dei primi esempi di cui io ho sentito parlare già ormai un paio di anni fa e mi fa piacere finalmente, tra l'altro, poterlo incontrare e conoscere di persona. Sicuramente è una delle poche iniziative positive in termini di gestione del territorio. Io di formazione sono un architetto, quindi questo film c'è anche parte della mia formazione e mi fa davvero piacere quando c'è un'amministrazione come quella di Cassinette che adotta certe scelte e a quanto pare tra l'altro anche con un certo successo, non solo in termini di gestione del territorio ma anche proprio in termini politici. Paolo Casalis, grazie per essere stato con noi e a risentirci, in bocca al lupo. Grazie a voi e appuntamento al Messico. Ciao. Ciao a tutti.